La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Subito le ultime notizie: Lodo Mondadori, udienza in Cassazione, si andrebbe verso la conferma del risarcimento dovuto da Fininvest a CIR, a mio avviso, spiega al termine dei lavori il procuratore generale della Cassazione Pasquale Fimiani, è necessario rivedere in piccola parte però l'entità del risarcimento. Altro tema, quello delle riforme, il Popolo della Libertà apre alla possibilità di intervenire anche sulla magistratura e lo fa con un emendamento al disegno di legge del governo. Il Partito Democratico non ci sta e parla di blitz. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Partiamo con le critiche piovute un po' da tutte le parti ai provvedimenti varati ieri dal Consiglio dei Ministri, le misure per l'occupazione, ma soprattutto le modalità scelte per permettere il rinvio di 3 mesi dell'IVA. Di fatto si ricorre all'aumento delle addizionali. Di coperta corta parla il capogruppo del PDL Brunetta. Ascoltiamo. Allora, intanto c'è una buona notizia, che l'IVA dal 1° di luglio non aumenterà. L'altra notizia è la copertura di questo blocco, che è una copertura assolutamente inaccettabile. Il ministro Saccomanni non si è confrontato con la sua maggioranza in quanto a coperture. Male, doveva farlo. Io l'ho detto con molta chiarezza, bene che abbia detto che lo si possa fare, lo faremo. E io penso che all'interno della maggioranza troveremo una soluzione diversa da quella che ha trovato la burocrazia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché coperture di questo tipo sono partite di giro, anzi ho detto ieri di raggiro. Non si può pensare di aumentare gli acconti IRPEF e altri a fine anno sulla base di una prospettiva non di crescita dell'economia ma di decrescita dell'economia. Non ha alcun senso e quindi non ha alcun senso pensare di bloccare l'IVA aumentando le altre tassazioni. Serve dunque un altro tipo di copertura, secondo Brunetta, per finanziare il rinvio di 3 mesi dell'IVA. Le critiche invece del Partito Democratico si concentrano maggiormente sul provvedimento sul lavoro. Si poteva fare di più, dicono, da largo del Nazareno. Abbiamo avvicinato e sentito su questo l'onorevole Realacci. Sicuramente c'è un problema di risorse e di priorità. Io penso per esempio che si può fare un investimento molto più forte sull'edilizia, il vero settore in cui noi abbiamo perso pari 500.000 posti di lavoro fra l'edilizia e la filiera dall'inizio della crisi, è quello su cui si può recuperare di più se si scommette con grande forza attivando capitali privati sulla qualificazione, sul recupero, sulla manutenzione. Per capirci, l'ecobonus, stabilizzare l'ecobonus, estenderlo al consolidamento antisismico può essere una formidabile manovra anticiclica questa strada è una strada che consente anche di alleggerire il bilancio delle famiglie molto più dell'IMU. IMU ed IVA sono delle cambiali pagate alla tenuta del governo a Berlusconi. Caso strano, ieri poi un faccia a faccia a Berlusconi napolitano, dove il Cavaliere ha detto: le mie vicende giudiziarie non influiranno sull'esecutivo. Io mi auguro che sia così. Sono due misure che vanno messe in ordine di priorità. Io penso che alleggerire l'IMU sulla prima casa, le famiglie a reddito più basso, è una cosa giusta e che fa bene all'economia, perché l'economia italiana ha un mercato interno drammatico e un export forte. Non è un po' ideologica la battaglia quella sugli F-35 dal momento che erano comunque in cantiere, diciamo così, da più di 10 anni, se non sbaglio? Guardi, di un po' di ideologico c'è l'enfatizzazione della spesa, perché tante volte si confonde, diciamo, quello che è una spesa che si sviluppa nell'arco di 20 anni con quello che dobbiamo poi impegnare per far fronte alle cose di oggi. Io ho sentito dire cose del tipo che basterebbe la spesa per gli F-35 per risolvere i problemi dell'IMU, dell'IVA e di non so quant'altro, della scuola, eccetera. Beh, non è così. purtroppo non è così. Invece non è assolutamente ideologico il fatto di dire che in un momento di crisi tutto va rivisto e tutto va in qualche maniera guardato con un'idea di, con un occhio diverso. Ecco, vale non solo per Papa Francesco, vale anche per le spese militari, vale per le grandi opere che vanno fatte quando servono, ma magari se vogliamo produrre più lavoro è meglio occuparsi di manutenzione del territorio e piccole opere. L'Italia deve fare l'Italia dell'export, ma rilanciare il mercato interno. E il problema, pare di capire, resta sempre quello delle risorse. Dispiace dirlo, ma Brunetta ha ragione, dice Gregorio da Catanzaro. Antonio da Como, ancora una volta per tappare una falla ne hanno aperta un'altra, sono proprio degli incapaci. Antonio da Como si riferisce dunque quindi alle addizionali aumentate per coprire lo slittamento di 3 mesi dell'IVA. Queste dunque le polemiche di giornata. Abbiamo ascoltato Realacci, si riferiva anche alla polemica sugli F-35. Uscendo dalla stretta attualità, vogliamo per una volta dare spazio a delle forze politiche di cui si parla inevitabilmente di meno. È il caso di Scelta Civica, partito di governo guidato dall'ex premier Mario Monti. Il professore sta avendo in questo periodo un basso profilo. Intanto vi è più di una crepa con l'alleato dell'UDC. Abbiamo chiesto allora al capogruppo alla Camera, Lorenzo Dell'Ai, cosa sta succedendo. Ascoltiamo Dell'Ai. Scelta Civica sta trasformandosi da lista a movimento politico vero e proprio. Nel fare questo affrontiamo ovviamente tutti i problemi che ci sono. Il primo problema che dovremmo affrontare e stiamo affrontando è quello del posizionamento politico. Mi pare che sia stata molto sopravvalutata la questione dei rapporti con l'UDC, già oggi siamo 2 partiti diversi, il tema è vedere se in prospettiva potremo stare insieme in un unico soggetto politico. Io lo auspico, però certamente per fare questo bisogna che chiariamo tante cose anche dal punto di vista del posizionamento politico. La scelta del presidente Monti di stare un po' dietro le quinte in quest'ultimo periodo, come la dobbiamo interpretare? Ma a dire il vero, il presidente Monti ha accettato di essere presidente di Scelta Civica, quindi non è che se ne stia così tanto dietro le quinte. Di sicuro il presidente Monti da sempre, per sua formazione, per sua esperienza, è molto concentrato sugli scenari macro, diciamo così, della politica, quindi segue moltissimo la politica europea, è preoccupato di poter capitalizzare un po' anche a livello europeo gli sforzi che il nostro paese ha fatto anche sotto la sua guida, sotto la sua responsabilità. È forse meno interessato agli aspetti più quotidiani, più domestici della politica italiana. Sono di meno, io credo che più passa il tempo, più la figura del presidente Monti, anche con gli errori, con le difficoltà del suo governo, ma più passa il tempo e il tempo è galantuomo, più apparirà chiaro che ha dato il presidente Monti un contributo importantissimo al recupero di credibilità e al recupero della rotta del nostro paese. E questo è il nostro focus su Scelta Civica per capire un po' più in maniera approfondita cosa sta accadendo nel partito fondato dal premier Monti. Tornando ai vostri sms 349-238-6666, logicamente il tema è quello delle risorse economiche che finanziano meno i provvedimenti varati dal governo. Roberto da Bergamo auspica maggiori tagli alla spesa pubblica, basta con cassieri al governo, scrive Marco da Ferrara. Quello che hanno fatto è qualcosa che non va, scrive Pino. Abbiamo parlato di Scelta Civica, ora ci concentriamo su Fratelli d'Italia, un partito molto attivo qui in Parlamento, oggi iniziativa contro le cosiddette pensioni d'oro. Sentiamo allora Giorgia Meloni. Sulle pensioni d'oro in realtà qualcosa è stato fatto, sono stati chiesti dei contributi di solidarietà che poi la Corte Costituzionale ha, a mio avviso, vergognosamente dichiarato incostituzionali. La nostra proposta è molto semplice, noi vogliamo ricalcolare queste pensioni, vogliamo stabilire un tetto che per noi è 10 volte la pensione minima e sopra quel tetto, anche per le pensioni diciamo retributive, calcolare se sono stati versati i contributi. Se non sono stati versati i contributi, la parte eccedente la tagliamo e ci andiamo a aiutare le pensioni minime e le pensioni di invalidità, perché è incredibile. incredibile che in Italia ancora oggi ci sia qualcuno che prende una pensione da 90.000 euro al mese per la quale non ha pagato i contributi e intere generazioni che lavoreranno tutta la vita e non avranno mai una pensione decente e lavoreranno per pagare i privilegi di qualcun altro. Ecco, qualcuno può dire ma sono numeri marginali nell'economia del nostro paese, invece si tratta di quante persone? Non sono affatto numeri marginali, noi parliamo di quasi 200.000 persone che in Italia prendono una pensione più alta di 10 volte la pensione minima, cioè più alta di 5.000 euro al mese, e di centinaia di persone che prendono una pensione più alta della pensione minima da 20 a 50 volte, significa anche pensioni da 25.000 euro al mese. Sono tante, costano allo Stato italiano più o meno 15 miliardi di euro l'anno, quindi vede bene che insomma se riuscissimo a tagliarne anche una percentuale decente, noi potremmo recuperare qualche miliardo di euro utile per esempio ad abbattere il cuneo fiscale per l'assunzione dei giovani o ad aiutare le pensioni di pensionati che non ce la fanno perché non prendono neanche 500 euro e non arrivano alla fine del mese, quindi fare un po' di giustizia sociale. Queste dunque le parole di Giorgia Meloni, ricordiamo l'iniziativa oggi di Fratelli d'Italia sul taglio delle cosiddette pensioni d'oro, sulle quali era intervenuta addirittura la Corte Costituzionale bloccando il prelievo oltre i 90.000 euro. Altro fatto tra politica e vicenda giudiziaria, quella del senatore De Gregorio, lo ricorderete, al centro di fatti giudiziari per la compravendita di parlamentari che portò al ribaltone del governo Prodi. De Gregorio ha ammesso le proprie responsabilità chiedendo il patteggiamento, poi parlando alla stampa di fatto ha chiesto quasi scusa a Romano Prodi. Lo Stato deve essere assistenziale, stampa.